Steve a mis au point différents réservoirs. La finestra sul cortile di Riccardo Chiaberge. Rieccoci e bentornati alla finestra sul cortile. Viviamo nell'epoca della realtà virtuale, del Grande Fratello, dell'isola dei famosi e dei reality TV. È sempre più difficile distinguere il vero dal falso. Per esempio, quando è che un malato è un malato vero e quando invece un malato immaginario? Gli ipocondriaci sono sempre esistiti, fin dai tempi di Molière e anche prima, ma oggi si tende a interpretare ogni malessere come psicosomatico e allora anche il malato immaginario si trasforma in malato vero. E quando invece ci commuoviamo per una trasmissione su Haiti e magari diamo un euro a qualche organizzazione umanitaria col telefonino, siamo veramente solidali con le popolazioni colpite oppure la nostra è una solidarietà fittizia, immaginaria? Ecco, di malati immaginari e di umanitari per finta parleremo in questa puntata della Finestra sul Cortile. Ma intanto ascoltiamo che cosa prevede il nostro sommario. Francia. In TV la solidarietà fa audience. Spagna. I graffitari, artisti o delinquenti. Australia. Claudia Cardinale, una star italiana agli antipodi. America. Gratta il malato immaginario e trovi il genio. Inghilterra. Tesoro, trascuriamo i pupi. Meno tempo si dedica ai figli, più dura un matrimonio. Francia. Missione videogame. Per reclutare giovani, l'esercito si infiltra nei videogiochi online. Dal reality show al solidarity show, il buon samaritano fa audience sulle TV francesi, ma dovremmo dire nelle TV di tutto il mondo. Lo spunto lo prendiamo da un articolo del quotidiano cattolico francese La Croix intitolato Quand la télé-réalité veut rimer avec solidarité, quando appunto la TV verità vuole far rima con solidarietà. E l'articolo appunto prende spunto insomma da una serie di trasmissioni che in questo momento vanno molto forte sulla TV francese, per esempio Tous Ensemble del canale televisivo TF1, in cui si racconta che una signora rimasta senza tetto in seguito ad un tornado è stata soccorsa e segnalata a questa trasmissione Tous Ensemble ed è riuscita in poco tempo a riottenere una casa mentre viveva in una roulotte. Un altro caso è quello invece del presentatore Frédéric Lopez che su France 2 sta preparando una trasmissione, una lotteria di solidarietà mondiale in cui ogni telespettatore potrà versare un euro attraverso il telefonino ad una qualsiasi progetto umanitario che verrà presentato nel corso della trasmissione. Su questo fenomeno dell'umanitarismo televisivo, diciamo di missionari virtuali, di benefattori con poco sforzo, perché questo poi è quello che accade ai telespettatori che si commuovono di fronte a queste trasmissioni e magari danno il loro contributo, ci sono una serie di prese di posizione di esperti, di intellettuali francesi, tra cui questo Philippe Mesnard che dice che secondo lui in una situazione di crisi come quella attuale abbiamo tutti bisogno di produrre del senso, di vedere il mondo in una chiave più ottimistica e quindi sogniamo di essere umanitari senza farlo direttamente, identificandoci confrontiamoci con quelli che magari sono ad Haiti o in un'altra situazione di dramma collettivo e danno effettivamente il loro aiuto alle popolazioni colpite. Noi stiamo comodamente seduti in poltrone, però ci sentiamo partecipi di questo progetto, di questo sforzo umanitario. Ecco, ma intanto, per parlare proprio di questi temi, abbiamo al telefono un ospite che salutiamo, Federica Sciarelli. Salve, salve a tutti voi, ciao Riccardo. Grazie di essere con noi alla Finestra sul Cortile. Federica Sciarelli, volto noto della televisione, dal 2004 conduce tutti i lunedì il programma Chi l'ha visto, che porta all'attenzione dei telespettatori i casi di persone scomparse. Il primo caso di cui si occupò, che purtroppo ancora non è risolto, è quello di Denise Pipitone, no? Mi pare, se non sbaglio. Sì, è stato così, perché iniziava nel 2004, a settembre scompare la bambina, noi stavamo per andare in onda con la mia prima puntata da conduttrice e tutti speravamo in un ritorno a casa, invece sono passati tanti anni e purtroppo è ancora irrisolto, ecco. Esatto. Ecco, quindi possiamo dire che la tua, ci diamo del tu perché siamo colleghi, ci conosciamo da tanti anni, è una trasmissione, possiamo dire, che rientra, no, in questa casistica che viene fatta dalla Croix delle trasmissioni con finalità umanitarie. Ecco, qui un po' l'accusa velata di questo articolo, e mi pare da parte di alcuni di questi osservatori, è che in realtà quello che, a cui si punta è l'audience. Ho ascoltato con attenzione, devo dire, noi con orgoglio diciamo che facciamo servizio pubblico e che serviamo alla gente. C'è una piccola differenza con le trasmissioni che citavano in questo articolo, cioè i nostri telespettatori non sono quelli che stanno comodamente seduti e si beccano le storie più o meno tragiche e poi dicono meno male io sto al calduccio a casa mia, no, i nostri telespettatori sono quelli che invece partecipano alla ricerca. Certo. Quindi, per essere pratica, se non ci fosse Chi l'ha visto, tanti malati di Alzheimer non tornerebbero a casa, perché sono i nostri telespettatori che ci aiutano, noi ci rivolgiamo a loro. Noi abbiamo i nostri telespettatori, sono come delle telecamere, ci aiutano a risolvere. Certo, sono dei detective gli stessi, sì, telespettatori, in qualche maniera, collaborano alla ricerca. In particolare abbiamo molti anziani che si perdono, quindi... Ecco, qual è il caso in cui tu ti sei sentita veramente di avere svolto una funzione sociale essenziale, di servizio pubblico, come dici tu? I familiari a noi dicono: voi siete l'ultima spiaggia, noi ci crediamo tanto in voi perché ci rimanete solo voi. Che cosa succede? I casi vengono chiusi, come il caso di Emanuele Orlandi. Poi ci sono dei casi che noi risolviamo proprio appunto tramite i telespettatori. Considerate che se scompare un familiare, i parenti dovrebbero mettere un detective, farsi levare non so quanti soldi, no, da un investigatore privato. Devono mettere gli avvocati se ci sono delle cause. Ci sono delle famiglie che sono andate in rovina. Allora noi invece diciamo: non vi preoccupate, tanto noi siamo un servizio pubblico, tutto fatto gratis, e diamo veramente una mano. Certo, ecco, ma può accadere qualche volta che chi scompare invece non voglia essere ritrovato, lo abbia fatto di proposito, insomma, la famosa barzelletta di quello che va a prendere le sigarette, insomma, e poi non torna più a casa? Assolutamente sì, la nostra redazione chiaramente ha un'esperienza tale per cui la prima cosa che facciamo è chiediamo la denuncia di scomparsa, vediamo che ci sia, perché se uno scompare che ha gli usurai appresso, oppure un ragazzo che ha fatto uso di droghe, che c'è il pusher che lo vuole ammazzare, è chiaro che però sono scomparse limite, nel senso che hanno bisogno di una mano queste persone. Se c'è una donna picchiata dal marito che se ne va di casa, avrà tutta la mia solidarietà e nessuno la cerca. Certo. Ecco, ma ritornando diciamo invece ai temi più generali di sollevati in questo articolo, che non riguardano evidentemente la tua trasmissione, ecco, ma secondo te è vera solidarietà quella che va in onda in TV, oppure è un rito di catarsi collettiva per salvarsi la coscienza e l'anima, insomma, di fronte ai drammi dell'umanità? Ma io credo un po' e un po', però guardate, l'overdose di dolore non fa bene alla televisione, anzi noi di Chi l'ha visto per esperienza sappiamo che se diamo troppo dolore, noi cerchiamo di mettere anche dei servizi un po' così diversi, insomma, appunto a lieto fine, magari, dove sei, le persone che si cercano, eccetera, perché io non credo che sia così, cioè le persone chiaramente partecipano quando scoppia la tragedia, cioè nel momento della tragedia partecipano tutti per la situazione ad Haiti, ma se i telegiornali, i contenitori continuano a parlare di Haiti e fanno vedere i bambini, i morti, eccetera, vi assicuro che la televisione va giù. Io poi dico, noi siamo un programma che insomma degli ascolti, noi cerchiamo di portare la gente a casa, no? Certo. Non è tanto quello, però so che l'overdose di dolore non fa bene agli ascolti, tant'è vero che reality o insomma tutti i contenitori che vanno meglio sono quelli dove, scusate se lo dico, ci sono insomma, delle belle ragazze. È chiaro. No, lo puoi dire, lo puoi dire, hai assolutamente ragione. Bene, noi ringraziamo Federica Sciarelli, buona domenica e a presto. E auguri per il suo lavoro. Grazie, ci vediamo il lunedì allora. In bocca al lupo, arrivederci. Artista o delinquente? È il caso sollevato sul País da Valme Cortés di tale Raúl Ruiz, conosciuto meglio nella sua città come El Niño de las Pinturas. È un artista di Granada che ha la fama di grande graffitaro e che fu addirittura premiato in passato dal comune di Granada per i suoi graffiti, e adesso invece si è beccato una grossa multa dalla polizia, sempre della sua città, per aver dipinto dei graffiti in una zona proibita. Insomma, l'arte può passare dal premio alla punizione. Ma Raul non si preoccupi, troverà presto qualche collezionista pronto a comprare i suoi graffiti, magari per un prezzo molto superiore alla multa che ha dovuto pagare. E forse si potrebbero addirittura multare anche gli architetti che costruiscono brutti edifici, oppure gli artisti che ci infliggono orrende installazioni. Visti dagli altri. Tuo fa l'americano, americano, americano, ma si nati in Italia. È stata considerata la risposta italiana a Brigitte Bardot, tant'è vero che la sua concorrente e rivale francese pare abbia dichiarato: beh, dopo BB viene CC in ordine alfabetico. Stiamo parlando di Claudia Cardinale, la nostra grande attrice che ormai ha 71 anni, ma sempre bellissima, e che sta per essere omaggiata in Australia di una retrospettiva dedicata al suo lavoro, che va appunto, ricordiamo, da Rocco e i suoi fratelli al Gattopardo, a 8 e mezzo di Federico Fellini e a tanti altri film famosi. E proprio a lei viene dedicato un articolo sul giornale The Australian. Potete scrivere a La Finestra sul Cortile @radio24.it per segnalare casi di italiani che si mettono in luce all'estero. La Finestra sul Cortile. Aspetta, vieni qui. Senti un po'. Io stamattina non ho avuto tempo, non ho voluto vedere, constatare, osservare, per poi riferire al mio medico, al dottor Purgone. Dimmi un po' come è andato il mio clistere. Il vostro cosa? Clistere. Oh. Ho passato molta bile. Molta bile. Non è affar mio. Tocca al signor Fiorante a mettervi il naso, visto che ci guadagna. Va bene, senti. Tienimi in caldo un po' di brodo per il prossimo clistere che devo fare tra poco. Un altro clistere? Che ti interessi? Di che ti interessi? Cosa vuoi? Che una cosa voglio? Voglio che quei due, Fiorante e Purgone, ingrassano sulle vostre budella. In voi hanno trovato la vacca d'oro. Ma come ti permetti tu di criticare la medicina, tu che sei una povera ignorante e serva? Ecco quello che sei, va via! Bene, avrete riconosciuto la voce del grande Peppino De Filippo nei panni del malato immaginario di Molière. Forse l'ipocondriaco più celebre della storia della letteratura e del teatro. Ma che cos'è l'ipocondria e che rapporti ha con la creatività, con il genio artistico o letterario? Se noi andiamo sul dizionario Zingarelli, alla voce ipocondria troviamo la definizione erronea convinzione di essere malato, con sensazioni dolorose che non hanno riscontro obiettivo. E l'ipocondriaco è colui che è affetto da ipocondria, un tipo malinconico, uno che sta sempre male, anche quando non sta male, e se lo inventa per motivi più disparati. Proprio al tema degli ipocondriaci è dedicato un articolo di Laura Miller sulla rivista culturale online americana Salon.com. E Laura Miller prende spunto da un libro, The Hypochondriacs, Nine Tormented Lives, Gli ipocondriaci, nove vite tormentate, del giornalista irlandese Brian Dillon. I nove personaggi presi in esame da Dillon vanno da Darwin a Proust a Warhol e altri personaggi meno noti al pubblico italiano, ma il tema, il filo conduttore è che c'è un rapporto tra l'ipocondria, tra l'ansia, diciamo, per la propria salute e la creatività di questi personaggi. Per esempio, uno è il grande pianista Glenn Gould, che pare che quando un tecnico dei pianoforti della società di pianoforti Steinway gli diede una leggera pacca sulla spalla, chiese i danni alla ditta perché disse che gli aveva impedito di suonare, l'avevano dovuto ingessare completamente, quindi si era inventato questa storia. Un altro è Charles Darwin, che tutti quanti noi consideriamo un monumento di razionalità e che pare che invece ricorresse a cure di ciarlatani per le sue malattie vere o fittizie, e teneva delle note scrupolose dei suoi gas intestinali perché era ossessionato dal problema della flatulenza. Spesso, scrive Dillon nel suo libro, la malattia immaginaria si trasforma poi in malattia reale, perché soprattutto nei secoli passati i medici prescrivevano il riposo a letto, che di solito non è affatto un rimedio. E poi ci sono invece i casi, come quello di Glenn Gould, ma anche di Andy Warhol, di gente che è vissuta con tutte le condizioni per curarsi effettivamente dai propri mali reali. Per esempio, Glenn Gould soffriva di pressione alta arteriosa, mentre invece Warhol aveva un problema di cistifele, anziché operarsi finì per morire per un'infezione proprio dovuta alle cure sbagliate. Ma intanto abbiamo al telefono un ospite che salutiamo, Serena Vitale, grazie. Buongiorno. Di essere qui con noi. Grazie a voi. Serena Vitale, scrittrice slavista, traduttrice dal russo e dal ceco. Tra i suoi libri ricordiamo Il bottone di Pushkin, La casa di ghiaccio, L'imbroglio del turbante. Serena, lei non è un'ipocondriaca però? Assolutamente no, non ho nessuna speranza di diventarlo, perché vedo che davvero è strettamente legato al genio, perlomeno per i nomi che sono stati fatti, Proust, Docet, insomma. Certo, assolutamente. Ecco, ma tra gli autori che lei ha frequentato, sì, diciamo, che più ha studiato e tradotto, quali sono i casi, diciamo, di ipocondriaci clamorosi? Clamorosa mancanza nel libro è quella di Gogol, ecco, il cui genio era assolutamente legato, insieme a mille nevrosi, a un'ipocondria totale, per cui chi potesse leggere le sue lettere, che non sono mai state tradotte in italiano, sono appunto una sorta di spiegazioni di tutto quello che avveniva nel suo corpo, non sempre edificante, di tutte le sue funzioni corporali. Uno sternuto lo faceva, per uno sternuto credeva di essere morto, e soprattutto la fine, quando venne tormentato con queste cure, sempre lui era convinto di avere lo stomaco e tutti gli organi del proprio corpo all'incontrario. Ma questo si riflette poi in qualche maniera in certi personaggi delle sue opere? Assolutamente, nella sua genialità, così l'impotenza non la sentiva come una condizione, ma la sentiva come una malattia. Però insomma, tutto quello che si potrebbe fare un trattato, io scuso se parlo di queste cose, sulle emorroidi. D'altra parte, lo stesso scrittore che comincia i racconti di Pietroburgo con quella meravigliosa colorita emorroidale dei pietroburghesi, ne sapeva qualcosa. Evidentemente sì, parlava per fatto personale. Assolutamente per cognizione di causa. E quali altri grandi autori russi, ecco, possiamo citare? Un po' curioso, bisogna dire una cosa, che la parola ipocondria è entrato, così come in napoletano si dice apocondria per dire tutto qua, tutt'altra cosa, no? Tristezza, saudade, ecco. È entrato in russo in un modo molto strano e quindi ipocondria tende a fondersi con triste, così. Quindi addirittura si parla di ipocondriaco come tipo del romanzo russo, del protagonista del romanzo russo, ma e quindi c'è molta confusione, ma uno dei più assolutamente inediti che nessuno potrebbe immaginare è Chekhov, che essendo medico poteva assolutamente sapere, conoscere, certo, i sintomi, no? Si studia. E se c'è una persona lontana dalla nevrosi, comunque a 30 anni era convinto di stare per morire per un dolore, per un mal di pancia, così. Poi la vita l'ha cambiato, evidentemente. Però molto più curioso è che Tennessee Williams, che era un altro ipocondriaco come pochi, che era molto legato a Chekhov, arrivato ai suoi 30 anni sotto l'influsso di Chekhov, che amava molto, era convinto anche lui di morire. Quindi il medico Chekhov ha fatto stragi intorno a sé, insomma. Ecco. E poi è curiosissimo, per esempio, che Raskolnikov, l'adorato mio Raskolnikov, venga presentato come ipocondriaco, cioè voleva dire tipo chiuso, riservato. Certo. Comunque Gogol e invece il mio amato, adorato Pushkin, solare, era tutto il contrario dell'ipocondria, una persona che dice quando tutto sventrato dalla pallottola, sul punto di morire, dice: oh Madonna, ancora a sopportare questa sciocchezza. Ecco, no, ricordiamo che Pushkin morì in duello, no? In duello, ecco, dopo il duello, quando già sapeva di dover morire e aveva dei dolori assolutamente spaventosi, dice al suo amico medico Dagli: oh mamma mia, ma quanto deve durare tutta questa cosa per una sciocchezza del genere? Quindi insomma non occorre essere ipocondriaci per essere dei geni o dei grandi scrittori. Consoliamoci così. Ecco, ringraziamo Serena Vitale, buona grazie, domenica a presto. E a presto, arrivederci. Qual è il segreto di un matrimonio felice? Trascurare un po' i figli. E quanto scrive sul Daily Telegraph Anna Maxted, commentando un libro di David Code, un psicologo americano, che è intitolato proprio To Raise Happy Kids, Put Your Marriage First. Per crescere dei figli felici, metti al primo posto il tuo matrimonio. E dunque bisogna, secondo questo psicologo americano, insomma, bisognerebbe evitare di essere troppo attenti e scrupolosi nei confronti dei figli, perché questo genera molte tensioni nella coppia. Invece così evidentemente dei genitori più distratti sono delle coppie più felici. Il problema sono quei mariti o anche quelle mogli, padri o madri, che non si limitano a trascurare i figli, ma, come diceva Ennio Flaiano, colmano la moglie di disattenzioni. E ci spostiamo in Francia. Sulla rivista Rue 89 si parla di una polemica a proposito dei videogiochi e di una pubblicità delle forze armate francesi. È successo che gli utenti di alcuni videogiochi dei ragazzi si sono accorti che a un certo punto del gioco, sul più bello, compariva una pubblicità dell'esercito francese che ha come slogan Devenez vous-même, diventate voi stessi. Naturalmente questo ha suscitato delle proteste, ma il portavoce dell'esercito francese ha detto: beh, ma in fondo noi le mettiamo non nei giochi di guerra, le mettiamo in un rally oppure in un gioco del tennis o del basket, insomma giochi assolutamente innocenti, e noi promuoviamo in questo modo il reclutamento. Che male c'è? Difficile dargli torto, dopotutto è meglio essere arruolati dall'esercito che dal Grande Fratello. E per oggi è tutto, ringrazio Vittoria Mussini in redazione, Fabio Cantadori in regia, Riccardo Chiaberge vi dà appuntamento a domenica prossima, stessa ora, scrivete via mail alla finestra sul cortile @radio24.it. Buona domenica a tutti.